Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 757 e parleremo, ancora una volta, di tristi notizie in arrivo dal triste Trentino. Parleremo anche del lupo, dei benefici dell'alimentazione su base vegetale e di famiglie multispecie. La colonna sonora della puntata è curata da Gianluca Masala, la ricetta della settimana è di Gabriele Palloni. Ancora morte, ancora guerra agli orsi in Trentino. In questo momento, forse, la provincia più triste e più cupa d'Italia. Con un abile e spietato colpo di mano, il presidente della provincia autonoma di Trento, il leghista Maurizio Fugatti, ha raggiunto il suo obiettivo, per due volte stoppato nelle settimane precedenti dall'intervento del TAR. Far uccidere l'orsa KJ1, un'orsa storica del progetto Life Ursus, di 22 anni, madre attualmente di 3 cuccioli. Fugatti aveva già firmato 2 ordinanze di condanna a morte dopo un episodio avvenuto il 16 luglio scorso, quando un turista francese, avventuratosi nel bosco, era entrato improvvisamente in contatto con l'orsa e i suoi 3 cuccioli. Presa alla sprovvista, l'orsa aveva reagito con un'azione difensiva, colpendo l'uomo, senza procurargli però ferite gravi, prima di allontanarsi. Sono seguite, come detto, le ordinanze di soppressione del presidente Fugatti, entrambe bocciate dal TAR, sul ricorso tempestivo delle associazioni animaliste. Ma Fugatti non si è arreso. Da tempo ormai ha legato la sua fortuna politica, il suo profilo di amministratore, alla guerra agli orsi. Fugatti si propone come uomo forte, pronto a tutto per tutelare quella che definisce la sicurezza dei cittadini, la quale passa, nella sua visione, attraverso una gestione militare del territorio e l'eliminazione fisica degli orsi, considerati pericolosi. Così la terza ordinanza è stata quella che ha segnato la fine dell'orsa. Fugatti l'ha firmata la sera del 29 luglio e poche ore dopo, la mattina presto del 30, l'esecuzione è stata portata a termine, con ferrea disciplina, dagli incaricati del corpo forestale. Lo scarno annuncio dell'esecuzione è stato accompagnato nei comunicati della provincia da un'esposizione delle ragioni tecniche, sostanzialmente un parere dell'ISPRA, che avrebbe portato alla decisione. Sappiamo bene, naturalmente, che dietro le spiegazioni tecniche si nasconde in realtà la politica. La tecnocrazia, in questo caso, è solo un paravento, perché ISPRA non ha il potere di decidere in che modo agire nei confronti dell'orsa, pur nell'ottica di una gestione tecnocratica del territorio e di chi lo abita. La decisione è stata totalmente politica. Il potere di dare la morte, del resto, è il potere più puro, più assoluto che si conosca, e la possibilità di esercitarlo conferisce a chi detiene lo scettro un'indubitabile aura di forza e sacralità. Il presidente Fugatti questo potere vuole esercitarlo e gli va riconosciuto che nel tempo ha saputo creare attorno a sé un'area di consenso che corrisponde a una progressiva estensione nella società delle dure regole della guerra alla natura. Gli animali selvatici e le altre forme di vita sono in quest'ottica degli avversari o delle risorse da predare, da controllare, dei beni materiali e immateriali da sfruttare, a seconda delle circostanze. E questo è il comune sentire del nostro tempo, di una società che però si sta sgretolando, asfissiata dalla rivolta della natura, sotto forma di mutamenti climatici incontrollabili ed eventi estremi, e sotto i colpi delle guerre guerreggiate che si combattono ormai sempre più vicino a noi. La guerra agli orsi e alla natura è parte di questo quadro. L'uccisione dell'orsa anche stavolta ha dato il via a fortissime polemiche. Il consenso che Fugatti ha raccolto intorno a sé è il consenso dei ben pensanti, di chi cerca il quieto vivere, degli appagati e dei cinici. È il consenso anche dei tecnocrati e della gente di potere. Chi invece ancora si batte contro le ingiustizie, immagina la costruzione di una società che si sforza di cercare forme di convivenza attiva con gli altri esseri viventi, ha vissuto questo ennesimo atto di guerra con dolore, come una violenza inaccettabile. Prendiamo fra le tante dichiarazioni quella della LAV, la Lega Antivivisezione. Siamo pieni di dolore e di rabbia, ha detto Massimo Vitturi, responsabile dell'area animali selvatici dell'associazione, e siamo davvero preoccupati per i cuccioli e per questa furia ursicida che non si ferma. Fugatti e la sua giunta sfogano sugli orsi la loro incapacità politica di favorire una convivenza pacifica. L'AVA ha annunciato anche una denuncia penale contro Fugatti. Questa persecuzione, sostiene l'associazione, è anche il risultato di un'autonomia differenziatissima. Lo Stato ha abdicato, lasciando alla provincia ogni responsabilità e possibilità di decisione sul destino degli animali selvatici, permettendo di ammazzare una madre con un'ordinanza lampo, emanata di notte, quando probabilmente l'orsa era già nel mirino dei fucili, impedendoci di poterla difendere e salvare. C'erano tante alternative possibili, sostiene l'AV, fra cui quella del trasferimento in Romania, che avevamo suggerito. Perché allora uccidere una mamma coi cuccioli? Denunciamo Fugatti per violazione dell'articolo 544 bis, ossia uccisione non necessitata. Basta uccidere. Gli animali, dice l'AV, non devono più pagare per politici incapaci. Un altro parere è quello di Mario Tozzi, geologo, ecologista, divulgatore televisivo, che ha scritto un articolo sul quotidiano La Stampa. Secondo Tozzi siamo di fronte ad amministratori ipocriti, stiamo leggendo il suo articolo, che non hanno il coraggio di sostenere che l'unico orso buono è quello ucciso e magari mangiato, e che non riescono ad assicurare una convivenza fra sapiens e fauna selvatica. Hanno voluto gli orsi, poi, se questi fanno gli orsi, li abbattono, adducendo ragioni incomprensibili di una sicurezza dei cittadini, che non viene certo minacciata, e nascondendo motivi più oscuri, ben visti da cacciatori, agricoltori, allevatori. Gli uomini si ergono al vertice di una piramide su cui nessuno li ha mai messi, e pretendono di decidere della vita di altri individui, anche se non umani, individui esattamente come noi. Ancora, dice Tozzi, un tempo i sapiens deificavano gli altri animali, perciò esistono stelle che poi hanno preso il nome di orsa maggiore e minore, e guardiamo ancora verso un cielo settentrionale che ancora oggi si chiama Artico, cioè vicino all'orso. I sapiens avrebbero un compagno di strada nell'orso, come il caso abruzzese dimostra, nessun incidente a memoria d'uomo, molti turisti, convivenza pacifica, e potrebbero sviluppare un'economia sostenibile attorno a quelle specie bandiera che le persone amano, come lupi e orsi. Se le massacriamo in nome di un diritto che è destituito di ogni fondamento biologico, non facciamo un buon servizio ecologico, ma nemmeno economico né sociale, e dimostriamo che il nome che ci siamo autoattribuiti non è valido per tutti. La violenza è sempre l'ultimo rifugio degli incapaci. Piuttosto sorprendenti, va detto, sono alcune reazioni provenienti dal campo politico della destra, nel quale il leghista Fugatti si colloca, per quanto il suo profilo con la guerra agli orsi vada configurandosi nella nicchia della destra estrema, quella più risoluta, più decisa, meno disposta ai compromessi. Una critica alla sua scelta è venuta dal pur grigio ministro per l'ambiente, Gilberto Pichetto Fracchin, secondo il quale la soppressione dei singoli orsi non è la soluzione del problema. Ho chiesto a ISPRA, ha detto Pichetto Fratin, di darmi un piano di sterilizzazioni. Addirittura furiosa l'onorevole Michela Vittoria Brambilla di Forza Italia, presidente dell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell'ambiente. Con il decreto di abbattimento di KJ1, ha detto Brambilla, lungamente preparato ed eseguito in un batter d'occhio, il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha dato prova di crudeltà, di arroganza e di impotenza. Ha dato prova di crudeltà, ha spiegato la deputata, per aver perseguito con spietata determinazione la morte di una mamma orsa con 3 cuccioli, una femmina che circolava da 22 anni, che per 2/3 della sua vita non ha mai fatto parlare di sé e che il 16 luglio ha solo difeso i suoi piccoli, come farebbe ciascuno di noi di fronte a una minaccia ignota. Di arroganza per aver eluso scientemente e sistematicamente il controllo di legalità, facendosi beffe dei giudici amministrativi, delle associazioni protezionistiche e in definitiva di tutti i cittadini. Di impotenza perché, nonostante l'originalissima interpretazione dell'autonomia come tirannia sciolta da ogni vincolo, con quest'atto allo stesso tempo barbaro e meschino, che costerà caro l'immagine sua e della sua terra, ha certificato una volta per tutte l'inettitudine della classe dirigente trentina dinanzi alla questione Orsi. KJ1, mamma orsa uccisa nel triste Trentino, era figlia di Kirka e Jose, due dei 10 orsi sloveni che fra il 99 e il 2002 furono portati in Trentino per il progetto di reintroduzione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali. KJ1 è la settima orsa uccisa per decisione politica da allora. Dal Trentino passiamo all'Europa per parlare di un altro animale simbolo, il lupo, anch'esso minacciato dalla violenza umana, dalla pretesa suprematista, non sappiamo come altrimenti chiamarla, di un certo modo di concepire la politica e il potere. La notizia riguarda una sentenza importante firmata dalla Corte di Giustizia della Unione Europea, che ha stabilito che il lupo non può essere designato come specie cacciabile a livello regionale in uno Stato dell'Unione, se il suo livello di conservazione su scala nazionale non è soddisfacente. Il caso riguardava la comunità autonoma di Castiglia e León, in Spagna. Nel 2019 il governo regionale aveva approvato un piano faunistico venatorio territoriale che consentiva di cacciare un totale di 339 lupi. L'Associazione Spagnola per la Conservazione e lo Studio del Lupo Iberico ha fatto però ricorso contro il piano alla Corte Superiore di Giustizia di Castiglia e León. Dubitando della compatibilità della legge regionale con la direttiva Habitat, ha chiamato in causa la Corte di Giustizia, la quale si è espressa sostenendo che poiché il lupo in quella regione si trovava in uno stato di conservazione insoddisfacente e inadeguato, ha deciso di dichiarare illegittimo il provvedimento. Come si vede, siamo ancora in un campo minato, quello della cosiddetta gestione della fauna selvatica, la quale prevede normalmente un ampio ricorso agli abbattimenti, che avvengono fatalmente in un clima di ostilità e di poca comprensione fra umani e animali selvatici. E sappiamo, lo abbiamo detto poco fa a proposito degli orsi, che l'obiettivo dovrebbe essere invece la convivenza fra umani e animali, con la massima espansione possibile della vita selvatica. No. proviamo ad alleggerire i toni di questa difficile puntata riportando i risultati, in verità ancora parziali, di una ricerca che si è proposta di verificare se l'alimentazione vegana favorisca la longevità e anche la possibilità, diciamo così, di mantenersi giovani a dispetto dell'età. Parliamo quindi di un singolare studio pubblicato su BMC Medicine, condotto su 21 coppie di gemelli omozigoti adulti, che sono stati divisi in due gruppi per 8 settimane, con un gruppo impegnato a seguire un'alimentazione vegana e l'altro sottoposto a una dieta onnivora. L'osservazione compiuta ha portato a concludere che un regime alimentare vegano è associato a una riduzione delle stime dell'età biologica. È un calcolo questo basato sul piano tecnico sui livelli di metilazione del DNA, una variazione chimica nota come modificazione epigenetica, che altera l'espressione genetica ma non il DNA. Secondo l'osservazione compiuta, quindi, un'alimentazione esclusivamente vegetale mantiene giovani tessuti. L'agenzia ADN Kronos, nel riportare i dati contenuti nello studio, fa notare che in precedenti ricerche era stato evidenziato che l'aumento dei livelli di metilazione del DNA è associato all'invecchiamento. Nel dettaglio, i ricercatori che firmano lo studio, Varun Varaka, Christopher Gardner e i loro colleghi, hanno chiesto al gruppo degli onnivori, un gemello per ogni coppia di 21, di consumare fra 170 e 225 grammi di carne, un uovo e mezza porzione di latticini ogni giorno. L'altro gruppo ha seguito, come detto, una dieta vegana. Il campione era composto per il 70% da donne e i partecipanti avevano in media 40 anni. Alla fine dello studio gli autori hanno osservato, oltre a una diminuzione delle stime dell'età biologica in chi seguiva la dieta vegana, anche una diminuzione dell'età del cuore, degli ormoni, del fegato e dei sistemi infiammatori e metabolici. I ricercatori evidenziano che chi non aveva assunto alimenti di origine animale aveva perso in media 2 kg in più rispetto a quelli che avevano invece seguito una dieta onnivora. Queste variazioni di peso, secondo i ricercatori, potrebbero aver contribuito alle differenze osservate nell'età epigenetica di entrambi i gruppi. Sono quindi necessari, dicono gli autori della ricerca, ulteriori studi per analizzare la relazione fra composizione della dieta, peso e invecchiamento. Attendiamo dunque gli esiti di questi nuovi studi prima di arrivare a una conclusione certa. Intanto registriamo il fatto che la dieta vegana fa bene alla salute, come peraltro già sapevamo. It's 1 o'clock and time for lunch. Bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. Jacob, wake up, we got to tidy your room now. And then Mr. Lewis, isn't it time that he was out on his own? Get it. feet down and I lie on the bench. I can always hear them talk. Me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Riprendiamo dal notiziario animalista LaZampa.it una notizia interessante e promettente che arriva dal Brasile, dove un giudice ha riconosciuto a un cittadino senza fissa dimora il diritto di vivere insieme al suo cane, riconoscendo la loro convivenza come una famiglia multispecie. La storia, che ha avuto una forte eco mediatica in Brasile, comincia a Curitiba, quando un giovane cane, Rock, viene investito da un'auto sotto gli occhi del suo umano di riferimento, Carlos Merlini Neto, un uomo di 46 anni, senza fissa dimora. A causa dell'incidente, il cane di appena 7 mesi aveva riportato una frattura alle costole ed era stato condotto in un rifugio gestito dal comune. Durante la degenza e nell'assenza di informazioni sullo stato di salute di Rock, a Carlos è stato comunicato dal Centro per la Difesa degli Animali che l'animale era sulla lista delle adozioni e che c'erano persone interessate a prenderlo. Questo perché Carlos non aveva un indirizzo da indicare, una casa nella quale accogliere il cane. Carlos si è sentito violato nei propri diritti fondamentali e si è rivolto al difensore pubblico dello Stato di Paraná, che facendo riferimento all'articolo 226 della Costituzione brasiliana, dove viene definito il concetto giuridico di famiglia, ha detto: non si può ignorare che attualmente stiamo parlando di una famiglia multispecie formata dal nucleo familiare umano in convivenza condivisa con i propri animali domestici. Ebbene, il Tribunale Speciale del Tesoro Pubblico di Curitiba, al quale Carlos si è rivolto col sostegno del difensore pubblico, ha accolto il ricorso e ha obbligato il comune a riconsegnare il cucciolo a Carlos. Carlos ha detto al giornale O Globo: ringrazio Dio che mi ha restituito Rock. Lui e il mio compagno sono la mia famiglia. Se non fosse stato per l'ufficio del difensore pubblico che mi ha aiutato, mi ha accompagnato e mi ha spinto a fare ricorso, forse non sarei più con lui. Viva, aggiungiamo noi, le famiglie multispecie. Abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, di rientro dalle meritate vacanze, di donarci una ricetta estiva a sua scelta. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore di vari libri, l'ultimo dei quali è Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ricettina estiva, rapida e quasi indolore. per affrontare questo caldo birbone e portare in tavola un piatto unico completo. Fregola in panzanella. Gli ingredienti per 4 persone sono 300 g di fregola di grano duro, 1 litro di brodo vegetale, un bicchiere di vino bianco, uno spicchio di aglio, 200 g di ceci lessati, una cipolla di Tropea, un cetriolo, 2 pomodori costoluti maturi ma sodi, del basilico fresco, un mazzetto di rucola, una tazzina di aceto di mele, olio extravergine di oliva, sale e pepe. In una padella fate soffriggere lo spicchio di aglio in camicia in un cucchiaio di olio extravergine. Togliete l'aglio e aggiungete la fregola. Fate tostare pochi minuti e sfumate col vino bianco. Portate a cottura la fregola col brodo vegetale. Quando i chicchi saranno cotti ma al dente e ben asciutti, togliete dal fuoco e versate in una zuppiera e fate raffreddare, mescolando di tanto in tanto in modo che i chicchi siano ben sgranati. A parte lavate i pomodori e tagliateli a spicchi, non molto grandi, e metteteli in un colino recuperando il loro liquido. Tagliate la cipolla di Tropea a fette e immergetela nell'aceto di mele. Lavate la rucola e asciugatela bene. Sbucciate il cetriolo e tagliatelo a tocchetti. Scolate la cipolla dall'aceto e unite tutte le verdure in una insalatiera. Unite la fregola, i ceci, il basilico spezzato a mano. Condite con olio extravergine emulsionato al liquido dei pomodori, sale e pepe. Servite con un filo di olio extravergine, una foglia di basilico e del pepe nero macinato al momento. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.